Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Il giorno dopo, alle 11 del mattino, Vronsky andò alla stazione della ferrovia di Pietroburgo ad accogliere la madre, e la prima persona nella quale si imbatté sui gradini della grande scalinata fu Oblonsky, che con lo stesso treno aspettava sua sorella. «Ah, vostra eccellenza!» gridò Oblonsky. «Per chi sei qui?» «Per la mamma», rispose Vronsky, sorridendo come tutti quando incontravano Oblonsky, stringendogli la mano e salendo con lui la scalinata. «Deve arrivare adesso da Pietroburgo». «E io che ti ho aspettato sino alle 2. Dove sei andato dopo gli scerbachi?» «A casa», rispose Vronsky. «A dire il vero, mi sentivo così bene ieri dopo essere stato dagli scerbachi che non avevo voglia di andare in nessun posto. Da certi loro segni conosco i cavalli ardenti, dagli occhi loro i giovani innamorati conosco», declamò Stepan Arkadich esattamente come aveva già fatto con Levin. Vronsky sorrise con l'aria di non negare, ma cambiò subito discorso. «E tu chi aspetti?» domandò. «Io, una bella donna», disse Oblonsky. «Ah, così? Onni suacchi mali pons, mia sorella Anna». «Ah, la Karenina. Di certo la conosci, vero?» «Credo di conoscerla, o forse no. Davvero non me ne ricordo», rispose Vronsky in modo distratto al nome di Karenina, immaginando confusamente qualcosa di presuntuoso e di noioso. «Ma Alexei Alexandrovich, il mio famoso cognato, di sicuro lo conosci. Tutto il mondo lo conosce». «Vuoi dire che lo conosco di fama e di vista? So che è intelligente, erudito, qualcosa di divino, ma sai, questo non è nella mia... not in my line», disse Vronsky. «Sì, è un uomo eccezionale, un po' conservatore, ma ottima persona, un'ottima persona», osservò Stepan Arkadich. «Bene, tanto meglio per lui», disse Vronsky sorridendo. «Ah, ieri hai fatto conoscenza con il mio amico Levin?» domandò Stepan Arkadich. «Come no? Ma se n'è andato presto, non so perché». «È un bravo ragazzo, non è vero?» «Io non so», rispose Vronsky, «perché in tutti i moscoviti, escludendo naturalmente quelli con cui parlo, ci sia qualcosa di rude. Si inalberano sempre per qualcosa, si arrabbiano, è come se volessero sempre insegnarci qualcosa». «No», disse Stepan Arkadich, che aveva una gran voglia di raccontare a Vronsky delle intenzioni di Levin nei confronti di Kitty. «No, tu non hai apprezzato come si deve il mio Levin. È un uomo molto nervoso e accade che si renda antipatico, ma in compenso sa anche essere molto caro. È un carattere così onesto, leale e un cuore d'oro. Ma ieri c'erano motivi particolari», continuò Stepan Arkadich con un sorriso significativo, dimenticando completamente la sincera compartecipazione provata il giorno prima per il proprio amico e provandola ora nello stesso modo, ma per Vronsky. «Sì, c'era un motivo per cui poteva essere o particolarmente felice o particolarmente infelice». Vronsky si fermò e domandò direttamente: «Cioè che cosa?» «O ieri ha fatto una proposta di matrimonio alla tua belle sœur?» «Può darsi», disse Stepan Arkadich. «Infatti ho supposto qualcosa del genere ieri. Sì, se è andato via presto e per di più era di cattivo umore, vuol dire che è stato così. È innamorato da tanto tempo e mi fa una gran pena». «Così dunque. Comunque io penso che lei possa contare su un partito migliore», disse Vronsky, e raddrizzando il petto si rimise a camminare. «Comunque non lo so», soggiunse. «Sì, è una situazione penosa. È per questo che la maggioranza preferisce avere a che fare con donnine allegre. Qui l'insuccesso dimostra soltanto che non avevi abbastanza soldi, mentre nell'altro caso è in gioco la tua dignità. Ma ecco il treno». Vronsky, stando a fianco di Oblonsky, osservava i vagoni e quelli che ne uscivano e si era completamente dimenticato di sua madre. Ciò che ora aveva saputo a proposito di Kitty lo eccitava e lo rallegrava. Il suo petto involontariamente si raddrizzava e gli occhi gli brillavano. Si sentiva vincitore. Thank you. Vronsky seguì il capotreno nella carrozza e all'ingresso dello scompartimento si fermò per cedere il passo alla signora che ne usciva. Con il tatto abituale all'uomo di mondo, un solo sguardo all'aspetto di quella signora bastò a Vronsky per stabilirne l'appartenenza all'alta società. Si scusò e fece per entrare nello scompartimento, ma sentì il bisogno di darle un'altra occhiata, non perché fosse molto bella, non per l'eleganza e la grazia modesta che erano palesi in tutta la sua figura, ma perché nell'espressione del viso attraente, quando essa gli era passata accanto, c'era qualcosa di particolarmente carezzevole e tenero. Quando si voltò a guardarla, anche lei volse il capo. I suoi occhi grigi, scintillanti, che parevano scuri a causa dei folti sopraccigli, si fermarono in modo amichevole e attento sul viso di lui, come se essa lo riconoscesse. Ma poi si portarono subito sulla folla che si avvicinava come per cercare qualcuno. In quel breve sguardo, Vronsky riuscì a notare una vivacità contenuta che guizzava sul viso e si librava fra gli occhi scintillanti e un sorriso appena percettibile che increspava le labbra vermiglie, come se ci fosse in lei qualcosa che sovrabbondava, che riempiva talmente il suo essere da esprimersi al di fuori della sua volontà, ora nello scintillio degli occhi, ora nel sorriso. Volutamente lei spense la luce negli occhi, ma essa continuava a risplendere contro il suo volere nel sorriso appena percettibile. Vronsky entrò nello scompartimento. Sua madre, una vecchietta secca, con gli occhi e i riccioli neri, strizzò le palpebre scrutando il figlio e sorridendo leggermente con le labbra sottili. Alzatasi dal divano e passata alla cameriera una borsa a sacco, diede la piccola mano secca al figlio e, sollevando la testa di lui dalla mano, lo baciò in viso. «Arrivederci, Ivan Petrovich, e guardate se mio fratello è qui e mandatelo da me», disse la signora proprio sulla porta e rientrò nello scompartimento. «Allora, avete trovato vostro fratello?» domandò la Vronskaya rivolgendosi alla signora. Vronsky ricordò adesso che quella era la Karenina. «Vostro fratello è qui», disse alzandosi. «Scusate se non vi ho riconosciuta, ma la nostra conoscenza è stata così breve», proseguì inchinandosi, «che sicuramente voi non vi ricordate di me». «Oh no, vi avrei riconosciuto perché con vostra mamma durante tutto il viaggio abbiamo parlato solamente di voi», disse lei, e permise finalmente alla vivacità che voleva esternarsi di esprimersi in un sorriso. «E mio fratello ancora non viene». «Chiamalo tu, Alyosha», disse la vecchia contessa. Vronsky discese sulla banchina e gridò «Oblonsky, qui!» Ma la Karenina non rimase ad attendere il fratello, bensì, avendolo visto, con passo deciso uscì dal vagone. Non appena il fratello le fu vicino, con un movimento che colpì Vronsky per la sua decisione e la sua grazia, gli cinse il collo con il braccio sinistro, lo attrasse rapidamente a sé e lo baciò con forza. Vronsky la guardava senza abbassare gli occhi e sorridendo senza sapere neppure lui perché. Essendosi però ricordato che la madre lo aspettava, entrò nella vettura. La Karenina entrò di nuovo nello scompartimento per salutare la contessa. Stava immobile, tenendosi in posizione straordinariamente dritta, e i suoi occhi sorridevano. «Anna Arkadievna», spiegò al figlio la contessa, «ha un bambino di 8 anni, mi pare, e non si è mai separata da lui, e continua a tormentarsi per averlo lasciato». «Sì, con la contessa abbiamo parlato tutto il tempo, io di mio figlio e lei del suo», disse la Karenina, e di nuovo il sorriso ne illuminò il volto, un sorriso carezzevole che si riferiva a lui. «Probabilmente questo vi avrà molto annoiato», disse egli afferrando subito al volo la palla di civetteria che lei gli aveva lanciato, ma evidentemente lei non voleva continuare la conversazione su quel tono e si rivolse alla vecchia contessa. «Addio, mia giovane amica», rispose la contessa, «lasciatemi baciare il vostro bel visetto. Vi dico apertamente alla buona da vecchia che mi sono innamorata di voi». Per quanto ufficiale fosse questa frase, la Karenina evidentemente vi credette di cuore e se ne rallegrò. arrossì, si chinò leggermente, porse il proprio viso alle labbra della contessa, poi di nuovo si raddrizzò e sempre con il medesimo sorriso che si muoveva fra le labbra e gli occhi, tese la mano a Vronsky. Egli strinse la piccola mano che gli veniva offerta e si rallegrò come di qualcosa di particolare, dell'energica stretta con cui lei scosse la sua mano con forza e con ardire. Poi essa uscì con l'andatura rapida che sosteneva in modo così stranamente leggero il suo corpo piuttosto pieno. «Molto carina», disse la vecchia. La stessa cosa pensava suo figlio. L'accompagnò con gli occhi finché la sua graziosa figura non scomparve e allora sul suo volto rimase fermo un sorriso. De rebanhos, aí à beira da estrada, que te diz o vento que passa, que é vento que passa, e que já passou antes, e que passará depois, e a ti o que te Muita coisa mais do que isso Falam de muito outras coisas De memórias e de saudades E de coisas que nunca foram Nunca ouviste passar o vento Isto foi mentira E a mentira está em ti O que lhe ouviste foi mentira E a mentira está em ti La cameriera afferrò una sacca e il cagnolino, il maggiordomo e un facchino gli altri bagagli. Vronsky prese sotto braccio la madre, ma quando stavano già uscendo dal vagone, improvvisamente si videro passare vicino, di corsa, alcune persone con le facce spaventate. Passò di corsa anche il capostazione con il suo berretto di colore inconsueto. Evidentemente era successo qualcosa di insolito. La gente del treno tornava indietro di corsa. «Che c'è? Che c'è? Dov'è? Si è buttato sotto? È stato schiacciato!» si udiva dire fra quelli che passavano. Anche Stepan Arkadic e la sorella, che gli dava il braccio, ritornarono indietro con la faccia spaventata e si fermarono, evitando la gente all'ingresso del vagone. Le signore entrarono nel vagone, mentre Vronsky e Stepan Arkadic seguirono la gente per sapere i particolari della disgrazia. Un guardiano, forse ubriaco o troppo imbacuccato contro il forte gelo, non aveva sentito un treno che retrocedeva ed era stato investito. Ancor prima che tornassero Vronsky e Oblonsky, le signore seppero questi particolari dal maggiordomo. Oblonsky e Vronsky avevano visto entrambi il cadavere sfigurato. Oblonsky visibilmente soffriva, corrugava la fronte e sembrava sul punto di piangere. «Oh, che orrore!» «Anna, se tu avessi visto! Oh, che orrore!» diceva. Vronsky taceva, il suo bel viso era serio, ma perfettamente calmo. «Ah, se aveste visto, contessa!» diceva Stepan Arkadic. «E sua moglie è qui! È terribile vederla! Si è gettata sul cadavere! Dicono che era il solo sostentamento di una famiglia enorme! Che orrore!» «Non si può fare qualcosa per lei!» disse la Karenina con un bisbiglio emozionato. Vronsky la guardò. E subito uscì dallo scompartimento. «Vengo subito, maman!» aggiunse, voltandosi sulla soglia. Quando ritornò dopo qualche minuto, Stepan Arkadic già discorreva con la contessa di una nuova cantante, mentre la contessa sbirciava impaziente la porta aspettando il figlio. «Adesso andiamo», disse Vronsky entrando. Uscirono tutti insieme. Vronsky andava avanti con la madre. Dietro camminava la Karenina col fratello. All'uscita si avvicinò a Vronsky, il capostazione che lo aveva rincorso. «Voi avete consegnato 200 rubli al mio aiutante. Favorite indicare a chi li destinate». «Alla vedova», disse Vronsky stringendosi nelle spalle. «Non capisco che bisogno ci sia di domandarlo». «Li avete dati voi», gridò da dietro Blonsky e stringendo il braccio alla sorella soggiunse: «Molto bello, molto bello. Non è vero che è un bravo ragazzo? I miei rispetti, contessa». E lui e la sorella si fermarono cercando la cameriera. Quando uscirono, la carrozza dei Vronsky era già partita. La gente che usciva faceva ancora commenti su ciò che era successo. «Ecco una morte terribile», disse un signore passando vicino. «Dicono che sia stato tagliato in due». «Io penso al contrario che sia la migliore, istantanea», osservò un altro. «Chissà poi perché non prendono provvedimenti», disse un terzo. La Karenina salì in carrozza e Stepan Arkadic vide con stupore che le sue labbra tremavano e che tratteneva a stento le lacrime. «Che cos'hai, Anna?» domandò quando si furono allontanati di qualche centinaio di Sazen. «È un brutto presagio», disse lei. Dolly era annientata dal suo dolore, tutta assorbita da esso. Nondimeno ricordava che Anna, la cognata, era la moglie di una delle persone più importanti di Pietroburgo e una grande dame pietroburghese. E grazie a tale circostanza non aveva messo in atto quanto aveva detto al marito, ossia non aveva dimenticato che sarebbe arrivata la cognata. «Sì, in fin dei conti Anna non ha colpa di nulla», pensava Dolly. «Di lei non so nulla che non sia più che buono, e nei miei confronti da lei non mi è venuto che affetto ed amicizia». È vero che per quanto poteva ricordare l'impressione ricevuta a Pietroburgo dai Karenin, non le era piaciuta la loro casa. C'era qualcosa di falso in tutto l'impianto della loro vita familiare. Ma per che cosa mai non dovrei riceverla, purché non le salti in testa di consolarmi? Pensava Dolly. Tutte le consolazioni e le esortazioni e i perdoni cristiani, tutto questo l'ho già ripensato mille volte e tutto questo non serve a nulla. Sentendo il fruscio dell'abito e dei passi leggeri già sulla soglia, si voltò a guardare e involontariamente sul suo viso smunto non si espresse la gioia, ma lo stupore. Essa si alzò e abbracciò la cognata. «Come sei già arrivata!» disse baciandola. «Dolly, come sono contenta di vederti!» «Anch'io sono contenta», disse Dolly sorridendo debolmente e sforzandosi di capire dall'espressione del viso di Anna se sapesse. «Di sicuro lo sa», pensò, notando una partecipazione dolente sul viso di Anna. «Su, andiamo, ti accompagno nella tua camera», proseguì cercando di allontanare per quanto possibile il momento della spiegazione. Dopo aver visto i bambini, si sedettero ormai sole in salotto davanti al caffè. Anna afferrò il vassoio, ma poi lo scostò. «Dolly, lui mi ha detto». Dolly guardò con freddezza Anna. Ora si aspettava delle frasi convenzionali di solidarietà, ma Anna non disse nulla del genere. «Dolly, cara, non voglio parlarti in suo favore, né consolarti, non si può. Ma ho pena per te, mia cara, ho pena con tutta l'anima». Dolly la guardò interrogativamente. Sul viso di Anna erano visibili una partecipazione e un amore senza infingimenti. «Permetti», disse improvvisamente Dolly, «ma comincerò dal principio. Tu sai come mi sono sposata. Con l'educazione di mamma non solo ero ingenua, ero stupida. Non sapevo nulla. Dicono, lo so, che i mariti raccontano alle mogli la loro vita di prima, ma Stiva...» Ella si corresse. «Stepan Arkadich non mi ha detto niente. Tu non ci crederai, ma sinora io avevo creduto d'essere l'unica donna che lui avesse conosciuto. Così ho vissuto per 8 anni. Capisci dunque che non solo non sospettavo infedeltà, ma la ritenevo impossibile. Ed ecco, immaginati con idee simili a un tratto sapere tutto l'orrore, la bassezza. Cerca di capirmi, essere completamente convinta della propria felicità e a un tratto», continuò Dolly trattenendo i singhiozzi, «e ricevere una lettera. Una lettera di lui alla sua amante, alla mia governante. No, è troppo orribile». Estrasse frettolosamente il fazzoletto e se ne coprì il viso. «Capirei ancora se si fosse innamorato, ma ingannarmi con premeditazione, con astuzia e con chi? Continuare a essere mio marito e insieme stare con lei è orribile. Tu non puoi capire». «Oh no, io capisco, capisco, cara Dolly, capisco», disse Anna stringendole una mano. «E tu credi che lui capisca tutto l'orrore della mia situazione?» continuò Dolly. «Per nulla affatto. Lui è felice e contento». «Oh no», la interruppe in fretta Anna. «Lui fa pena, è annichilito dal rimorso». «Ma è capace di rimorso», interruppe Dolly scrutando attentamente il viso della cognata. «Sì, io lo conosco. Non potevo guardarlo senza provare compassione. Noi lo conosciamo tutte e due. È buono, ma è orgoglioso. E adesso è così umiliato. Soprattutto quel che mi ha commossa», e qui Anna intuì l'essenziale che poteva commuovere Dolly, «è che lo tormentano due cose: che si vergogna dei bambini e il fatto che, amando te, sì sì, amandoti più di ogni cosa al mondo», disse affrettandosi a interrompere Dolly che voleva ribattere, «ha fatto male a te, ti ha uccisa». «No, no, lei non mi perdonerà», continua a dire. Dolly guardava pensierosa, lontano dalla cognata, mentre ne ascoltava le parole. «Sì, capisco che la sua situazione è orribile. Per il colpevole è peggio che non per l'innocente, se sente che tutto il male viene dalla sua colpa. Ma come perdonare? Come posso essere di nuovo sua moglie dopo di lei? Vivere con lui adesso per me sarebbe un tormento, proprio perché io amo il mio finito amore per lui». E i singhiozzi troncarono le sue parole.